nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 ottobre, il sole in regione è sorto alle 7.26 e tramonterà alle 18.18, mercoledì c'è luna piena, e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. L'irrigazione dei campi, al di là delle valenze culturali, sta assumendo sempre più urgenze di sostenibilità. Anche i cambiamenti climatici impongono nuove attenzioni per ottimizzare l'utilizzo della risorsa acqua. Ad un miglioramento tecnologico e di gestione si rivolgono i nuovi bandi per l'erogazione di fondi europei nell'ambito del piano di sviluppo rurale. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare alle storie di vita nei campi che ci racconta Angelo Floramo, che oggi si addentra nel mondo della pitina, il presidio slow food del Pordenonese, non per decantare le sue valenze gastronomiche, ma per inquadrarla nel mondo delle tradizioni del lavoro, della vita di un territorio. Giornata importantissima oggi per i consorzi di bonifica regionali, i cui soci sono chiamati a rinnovare le cariche in un quadro di cambiamento della filosofia e azione consortile. Sapete distinguere i marroni dalle castagne? Ci dà qualche indizio il curatore della rubrica della frutticoltura, parlando ovviamente anche delle caratteristiche della pianta. In tema di api, oggi invece avremo l'illustrazione della morfologia di questo insetto, con una serie di caratteristiche e peculiarità che forse non tutti sanno. Per la rubrica degli alberi, oggi ci sarà una sorta di scheda per iniziare, per sommi capi, una loro classificazione. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Sono in arrivo nuovi fondi europei per il miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche da parte delle aziende agricole. È già stato pubblicato un bando da parte della Regione. Ne parliamo con Karin Minuti, dell'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia. Partiamo dal bando. Il bando prevede in particolare la sostituzione di impianti esistenti a bassa efficienza con quelli ad alta o altissima efficienza. Il bando ha una particolarità in termini di tipologia di finanziamento perché utilizza delle risorse aggiuntive derivanti dallo strumento europeo Next Generation EU, risorse aggiuntive cosiddette EURI, che favoriscono la ripresa economica e una maggiore resilienza del settore. Quanti soldi, quante sono le percentuali per il finanziamento e poi ci saranno nuovi bandi? Il bando ha una dotazione finanziaria al momento di 2 milioni e mezzo di euro e grazie proprio a questa tipologia di risorse europee è stato possibile prevedere un'aliquota di contribuzione più elevata del solito, per cui arriviamo a un contributo pari al 60% per le aziende agricole individuali, che viene elevato al 75% nel caso di giovani agricoltori. Ci sono dei massimali? Il costo dell'investimento per essere ammesso a contributo deve avere una dimensione minima di 25.000 euro fino a un massimo di 350.000 euro. E chi può partecipare a questi bandi? Possono partecipare le imprese agricole, individuali o societarie, ma anche le cooperative agricole di produzione, che però devono svolgere come attività principale la coltivazione o l'allevamento. Si diceva di impianti moderni, di impianti che sviluppano soprattutto anche il concetto ambientale. Assolutamente, infatti l'obiettivo dell'intervento sostanzialmente è quello di consentire una riduzione del consumo dell'acqua, un'esigenza molto importante e anche estremamente urgente, e al contempo anche di rendere però più efficiente appunto l'utilizzo di questa preziosa risorsa da parte delle aziende agricole, permettere loro anche di poter godere di una maggiore competitività e anche redditività nella loro attività. Si parlava di nuovi bandi e dove ci si può informare? Certo, altri bandi verranno pubblicati il prossimo anno, sempre utilizzando queste risorse particolarmente interessanti, e per informarsi è possibile accedere al sito della Regione, al sito dedicato al programma di sviluppo rurale della Regione, o ancora più facilmente aggiungersi al canale Telegram dedicato al programma. Basta digitare su Telegram sviluppo rurale FVG e in tal modo è possibile ricevere in tempo reale informazioni sui bandi e sui finanziamenti che verranno proposti. L'oggetto sarà sempre l'irrigazione o anche altri settori? Gli interventi saranno finalizzati a favorire un incremento della produttività delle aziende e quindi verranno favoriti interventi per l'acquisto di macchinari, attrezzature, però sempre con una valenza ambientale, quindi parliamo di agricoltura di precisione, e lo stesso varrà per gli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, intesa anche come agroindustria. Poi verranno rinnovati anche i bandi a cadenza annuale, come per esempio l'insediamento dei giovani in agricoltura che aprirà ai primi di gennaio. Oggi Angelo Floramo, nelle storie di vita nei campi, ci parla della pitina e di come questo prodotto tipico affondi le radici nella storia, cultura, territorio e lavoro della nostra regione. Nella lingua friulana, petà significa schiacciare con la mano, mentre la pitinite era una caldaia in cui si cuocevano le pannocchie di mais e prima ancora i pitinitz, ovvero le rape. Pitis, nella lingua greca, è inoltre il pino. Ci sono dunque già, nel nome della pitina, detta anche peta o petuccia, l'ottimo presidio alimentare che trova in Maniago il suo baricentro, tutti gli elementi utili alla sua produzione. La cultura che si squaderna sulla tradizione della mensa è sempre capace di restituire il profilo di un territorio. La sua sapienza, dal momento che in latino sapere significa avere il sapore di qualcosa, ma anche essere dotati del sale della conoscenza, è nascosta in questo segreto. Per questo le architetture culturali che si nascondono nella preparazione dei cibi sono sempre capaci di disvelare il rapporto profondo tra l'uomo e il contesto territoriale in cui ha scelto di vivere. La tavola imbandita diventa dunque sempre cultura che si fa paesaggio, intersezione privilegiata fra le risorse disponibili, le pratiche condivise dal gruppo e l'immaginario collettivo che si fa simbolo, narrazione, leggenda. La pitina nasce come prodotto di un territorio piuttosto ampio, non abitato originariamente da contadini, ma piuttosto sede di una complessa civiltà che gli antropologi definiscono agro-silvo-pastorale. Gruppi di pastori seminomadi che gestivano l'allevamento delle loro greggi, dai prati di valle alle pietraie ricche di arbusti del medune e del cellina, fino ai pascoli più ricchi in quota. Quegli uomini, condannati a un perenne randagismo, dovevano saper trattare la carne degli ungulati, conoscendo anche assai bene la raccolta di quelle erbe officinali fondamentali nell'aromatizzare e anche nel conservare il cibo. Per mesi se ne stavano lontani dalle loro comunità di origine, attraversavano una regione di fitte boscaglie dove istruivano, sotto architetture di legno ricoperte di aghi di pino e di terra, le carbonaie. Fucine, dette anche fusine, che nel friulano arcaico portavano appunto il nome di pitinite. È lì che probabilmente nasce la prima pitina, in virtù di quel meraviglioso sistema integrato tra il lavoro e il cibo, che nelle società arcaiche sa far dialogare fra loro le pratiche della produzione con quelle dell'alimentazione. Assieme a Marco Maligion, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, torniamo sul tema dell'acqua per parlare di consorzi di bonifica, in quanto oggi è una giornata molto importante. Sì, infatti oggi domenica 17 ottobre i tre consorzi di bonifica che operano sul territorio della regione, vale a dire il consorzio Pianura Friulana, quello della Pianura Esontina e quello del Celina Meduna, hanno indetto contemporaneamente le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi. Tutti i consorziati hanno ricevuto la convocazione con l'indicazione dell'ubicazione dei seggi e gli orari di apertura. sono raggruppati per fasce di utenza in base al livello di contribuzione e ognuno di loro esprime il voto per i candidati della propria fascia. Tra possessori di terreni irrigui e utenze private chiamati al voto sono migliaia. È vero, e per quanto riguarda i consorzi di bonifica è importante ricordare che l'articolo 14 della legge regionale 28/2002 prevede che l'elezione del Consiglio dei Delegati sia valida qualora abbia votato almeno il 15% degli elettori, calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile, oppure almeno il 20% della contribuenza relativa agli immobili censiti nel catasto terreni. Ma come viene fissato un quorum? Molti purtroppo si accorgono dell'importanza dell'acqua solo in occasione di eventi calamitosi, quando ce n'è troppa o quando manca. Spesso ci si dimentica che la gestione della quotidianità è cosa molto impegnativa che presuppone elevate competenze tecniche e anche visione politica. L'articolo 1 della già citata legge 28 dice che l'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole dei territori agricoli. Ecco perché è importante che gli agricoltori partecipino in prima persona alla gestione di questi enti assieme alla rappresentanza delle amministrazioni comunali. Il professor Raffaele Testolin continua la sua rassegna tra gli alberi di frutto che troviamo in regione. Oggi è la volta del castagno, con una fine disquisizione sulle differenze tra marroni e castagne. Ho degli amici simpatici ma perfidi e quando andiamo a raccogliere marroni, su invito del proprietario del fondo ovviamente, ai piedi di una pianta con frutti belli e grossi mi chiedono: tu che sei esperto, questi sono castagne o marroni? Perfidi! Ma io, proprio perché sono esperto, rispondo che non so e che bisogna solo provare a fare le caldarroste. Eh sì, perché non c'è niente che dall'esterno permetta di distinguere le castagne dai marroni. La differenza è solo questa: le castagne hanno la pellicina invaginata nel seme e non si spellano facilmente quando si fanno le caldarroste, mentre i marroni hanno la pellicina non invaginata e quando vengono messi in padella sul fuoco la buccia si apre facilmente ed esce il seme intero. Tutto il resto, dimensioni del seme, striature, colore della buccia e chi più ne ha più ne metta, non sono caratteri distintivi. Tutto qua. Ma tanto basta perché i marroni spuntino sul mercato prezzi tripli rispetto alle castagne. Quindi, se avete del terreno a disposizione e volete fare un castagneto, piantate marroni. Farete delle buone caldarroste e venderete il vostro prodotto a buon prezzo. Ma attenti, serve anche qualche pianta di castagne perché il marrone non fa polline e le piante di marrone nei boschi vengono impollinate dai castagni che sono attorno. Mi direte, ma in pianura le piante di castagno non crescono? Non è vero. Chi ha detto che il castagno è una pianta di montagna? Il castagno è una pianta di climi caldi. Il castagno italiano più vecchio si trova in Sicilia alle pendici dell'Etna. Si chiama il castagno dei 100 cavalli, ha più di 2000 anni e non soffre certamente il caldo. È importante soltanto che il terreno non sia calcareo perché il castagno vorrebbe terreni acidi o perlomeno non calcarei. Attenzione però, il castagno ha due brutte malattie, il cancro della corteccia e il mal dell'inchiostro. Nel secolo scorso queste due malattie hanno decimato gran parte dei castagneti di mezza Europa. Come sono fatte le api? Quali le loro caratteristiche morfologiche? Ce ne parla Moreno Greatti e sentirete particolari e più sconosciuti che rivelano la complessità e ricchezza di questo insetto. Le api, come tutti gli insetti, hanno il corpo suddiviso in tre parti distinte: capo, torace, addome. Nel capo sono presenti gli organi della vista, occhi e ocelli, le antenne e l'apparato boccale. Gli occhi, numero di due, sono composti e ciascuno costituito da elementi semplici, che variano come numero a seconda della casta. Questi occhi semplici sono chiamati ommatidi. Ogni ommatidio percepisce una piccola immagine. Dall'unione di queste parti di immagine, l'ape ottiene una visione a mosaico completa dell'ambiente circostante. Oltre ai due occhi, ci sono superiormente tre ocelli, quindi occhi semplici, destinati a percepire l'intensità luminosa. Le due antenne, sempre presenti nel capo, sono orientabili e sono degli organi di senso fondamentali, in grado di percepire sensazioni esterne come temperatura, umidità e soprattutto olfattive. L'apparato boccale è di tipo lambente succhiante ed è un insieme di appendici addossate le une alle altre e specializzate nell'ambire e suggere i liquidi e nel modellare la cera. Le mandibole sono piatte e sono assolutamente incapaci di lacerare, ad esempio, l'epidermide della frutta. Nel torace sono presenti gli organi del movimento, le zampe e le ali, e la cavità toracica è quasi interamente occupata dai muscoli alari. Le api posseggono due paia di ali, un paio per lato, di consistenza membranosa e vascolarizzate. Le zampe sono in numero di 6, 3 paia, e ogni paio ha funzioni specifiche. Basti pensare a quelle del terzo paio che consentono la raccolta del polline. L'addome è costituito da 10 segmenti, gli anelli, quelli che siamo abituati a vedere, uniti tra di loro e contengono gli organi interni, l'apparato digerente, escretore, riproduttore, eccetera. Nell'addome sono presenti anche numerose ghiandole, basti pensare alle ghiandole della cera e alla ghiandola odorifera del nasano. Infine, sempre nell'addome, vi è il pungiglione, un'arma di difesa presente nelle regine e nelle operaie. Il pungiglione delle operaie, quelle che ci pungono, presenta dei margini seghettati. È per questo che si stacca dal corpo delle api dopo che hanno inferto la puntura su di un tessuto elastico come può essere la pelle dell'uomo, rimanendo infisso in essa. Nelle vespe ciò non avviene, il pungiglione è liscio e possono pungere ripetutamente. È per questo è facile distinguere i due tipi di puntura. Continua la nostra rubrica Amici Alberi. Amici Alberi, che è il titolo del libro a cui ci ispiriamo, anzi si ispirano i loro autori, che sono Roberto Barocchi, Aldo Cavani e Giorgio Valvason. Oggi è la volta di Aldo Cavani, dottore forestale, 38 anni nel Corpo Forestale della Regione, direttore dell'Ispettorato delle Foreste. Lui ha curato una sezione di questo libro e, come fatto un albero, è il primo contributo che ci porta. Un albero è una pianta. Le piante si possono dividere in piante legnose ed erbacee. Le erbacee sono le erbe che sono annuali, poliennali o anche biennali. Gli alberi invece hanno la capacità di vivere molto a lungo. Sono piante appunto legnose e si distinguono in alberi, cioè piante di grandi dimensioni, in genere con fusto singolo per lo più, e invece piante più piccole, ramificate, che vengono detti arbusti. A loro volta gli alberi non sono tutti uguali. Abbiamo alberi che perdono annualmente le loro foglie, le latifoglie, quindi in primavera le rimettono, e alberi invece che sono sempreverdi, no? In genere sono conifere, ma ci sono delle eccezioni. Ad esempio il leccio, che è una quercia, è sempreverde. Altre piante della macchia mediterranea, come la filirea ed altre ancora, sono sempre verdi, la quercia da sughero. Però esistono anche delle eccezioni nel campo delle conifere. Abbiamo delle conifere che perdono le foglie, il larice ad esempio, che tutti conosciamo, o il cipresso calvo, Taxodium disticum, però non sono tante. Un'altra caratteristica molto importante delle latifoglie è quella di possedere la cosiddetta capacità pollonifera, cioè se tagliamo l'albero alla base è in grado di ricacciare. Le conifere non hanno questa possibilità. Nel caso delle conifere potremmo avere solo un alto fusto, cioè piante nate da seme, nel caso delle latifoglie un ceduo. E Con Amos D'Antoni vediamo ora l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi in aumento venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con un'unità 14% è stato quotato tra 27,40 e 27,60 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 24,60 e 25 euro. Il frumento tra 27 e 27,50 e la soia tra 58,20 e 58,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 10,70 euro e la soia tra 20,70 euro il quintale. Discrete contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in leggero aumento, dettati dalla diminuzione della temperatura. Pertanto l'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,10 e 1,20 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine tra 1,50 e 2 euro, le melanzane tonde tra 0,90 e 1,20, i pomodori in grappolo da 1,50 e 1,70, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,30 e 2 euro, il radicchio rosso tondo tra 1,50, quello di Treviso precoce tra 1,20 e 1,50, le mele golden in cassa 0,80 euro, le fusi tra 1,30 e 1,70, le fragole extra trentine tra 5,50 e 6 euro, le nettarine tra 1,50 e 2 euro, le pesche da 1,50, l'uva tra 1,30 e 1,80 e le castagne da 3 a 5,50 euro il chilo. Nel settore della pesca l'attività è abbondante con prezzi diversificati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 27 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 9 a 25, le canoce da 6 a 18, le orate da 6 a 22, le passere da 13 a 16, i cefali e le triglie da 2 a 6, le cappesante da 15 a 19, i calamari e i calamaretti da 18 a 27 e le seppie da 14 a 16 euro il chilo. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano scambi attivi con prezzi favorevoli. I polli a terra vengono pagati tra 1,14 e 1,16 euro al chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,56 e 2,60, le faraone tra 2,59 e 2,69, i tacchini maschi tra 1,43 e 1,45, i conigli oltre 1,5 kg tra 2,28 e 2,34 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'OSMER Marcellino Salvador diamo ora uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Questa settimana, con prevalenza di correnti settentrionali fredde e secche in quota, abbiamo avuto bel tempo. Le temperature minime sono scese a valori decisamente bassi per la stagione, congelate nelle valli. In pianura localmente si è vista la prima brina e si sono registrati dagli 0 ai più 3 gradi. Queste temperature di solito si hanno verso il primo novembre. Ora siamo in una fase anticiclonica con aria in genere secca a tutte le quote, che manterrà bel tempo fino a martedì compreso. Temperature massime sui 20 gradi su pianura e costa, minime sui 5-7 gradi in pianura, 10-12 sulla costa. Lo zero termico a 3000 metri favorirà temperature piuttosto miti anche in quota. Mercoledì lo zero termico salirà ben 4000 metri, portando aria ancora più calda sulle Alpi, mentre negli strati bassi si accumulerà aria umida che determinerà nuvolosità sotto i 1500 metri di quota. In seguito potrebbe passare un fronte atlantico con un ritorno della pioggia, ma la situazione non è al momento ben definita. Come sempre, perciò, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che l'ARPA elabora quotidianamente. Termina qui la puntata, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Se la biele il dì di San Gial, le biel fin a Nadal, ovvero se c'è bel tempo il giorno di San Gallo, il 16 ottobre, è bello poi fino a Natale. Coordinamento tecnico di Daniele Apostoli, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?